Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete che ci sono aziende dei paesi in via di sviluppo che vengono qui in Italia a portare lavoro, a raccogliere know-how e ad aprire loro sedi? Nel mondo della manifattura globalizzata le cose stanno cambiando, le vecchie tradizioni e forse anche le vecchie vulgata non sono più valide, c'è un generale rimescolio di carte. Oggi parleremo anche di un'azienda dello Sri Lanka, la Mass Holding, una roba da 1,5 miliardi e 80 mila dipendenti, che è venuta in Italia, Verano Brianza, a portare il centro di ricerca e sviluppo. Questo perché si appoggia a un'azienda locale che si chiama Cifra, che gli fornisce del know-how che a loro interessa moltissimo. Il caso della Cifra è interessante perché dimostra un po' la capacità di evolversi, di mutare, di essere intelligenti, di essere smart dei piccoli imprenditori italiani. La Cifra una volta produceva collant, poi il mondo dei collant è stato in qualche modo decimato, avete visto anche voi le proteste per stabilimenti chiusi per disoccupati, ma loro, che continuano peraltro a produrre anche collant, si sono evoluti verso la maglieria ad alto valore aggiunto e soprattutto verso un settore che adesso sta andando per la maggiore, si chiama Athleisure, che sta per Athletic Leisure, cioè delle composizioni prevalentemente per donne fatte in maglieria che sono molto eleganti, le fanno anche marchi tipo Fendi e che consentono, sono una via di mezzo fra lo sportivo e l'elegante, c'è anche una linea della Adidas e questa Cifra di cui ora parliamo è diventata loro fornitrice con delle macchine molto evolute, capaci di tessere contemporaneamente 20.000 fili. Ne parliamo oggi con l'amministratore delegato e anche uno dei titolari, perché Cifra vuol dire Citterio Fratelli, Cesare Citterio. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, lei ha preso l'azienda che produceva reti agricole e adesso fate abiti funzionali e siete fornitori dei grandi brand. Sì, la mia azienda è un po' un caso aziendale, perché quando sono entrato nell'azienda di famiglia, che erano due fratelli, adesso non la seguono più, la seguo io con mia sorella in parte, l'azienda produceva principalmente reti per utilizzo agricolo, cioè reti per raccolta olive, sacchi per raccolta delle patate e cose di questo genere. Nel corso di 20 anni diciamo che l'azienda si è trasformata un paio di volte, passando prima attraverso la produzione di calzetteria di fascia elevata business to business, calze lavorate che produciamo per vari brand tuttora, da Calzedonia, Golden Lady, Wolford, in tutto il mondo, all'ultimo grosso trend che è arrivato anche, diciamo che ci siamo appoggiati a questo trend anche in seguito della crisi arrivata nel 2009 che ha registrato un netto calo della calzetteria a livello mondiale, abbiamo convertito i nostri macchinari nell'ottica di generare un settore completamente nuovo in campo sportivo, un tipo di maglieria completamente innovativa in campo sportivo, una maglieria totalmente senza cuciture, indemagliabile, con delle lavorazioni chiamate body mapping che consentono al corpo di traspirare. E quindi è la base per il settore che nominavo, che si chiama Athleisure. L'athleisure è, diciamo, Athleisure è l'incrocio di due parole che sono athletic and leisure, cioè è il nuovo mega trend nell'abbigliamento che va ad unire l'abbigliamento sportivo all'abbigliamento utilizzato per il tempo libero. Va bene, dobbiamo chiudere un secondo perché ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Cesare Citterio della Cifra, azienda che fa maglieria ad alto valore aggiunto e che dimostra un po' la capacità di evolversi dei piccoli imprenditori italiani, di adattarsi ai tempi. Forse il successo di molte piccole imprese si spiega anche così. Loro, tra l'altro, ogni giorno fanno almeno 10 diversi clienti, ciascuno in esclusiva del cliente, in esclusiva per i vari clienti. E questo è anche un modo di anticipare uno dei trend dell'Industry 4.0, che è quello della spiccata personalizzazione, no? Assolutamente, almeno io ho un ufficio CAD dove ci sono 5 designer che realizzano almeno 10 nuovi modelli, intendo maglie o disegni particolari per i vari clienti, in modo tale da spostare la competizione da una competizione unicamente di prezzo a una competizione di unicità di prodotto. Infatti ogni nostro prodotto è differenziato a seconda del cliente, quindi ovviamente non c'è collisione tra uno e l'altro. E voi lavorate per marchi tipo Adidas? Adidas, diciamo, nel campo sportivo, insieme a Lululemon, che è un marchio quasi sconosciuto in Europa, ma che è forse il numero 4 a livello sportivo negli Stati Uniti, che rappresenta un po' la Apple dell'abbigliamento in termini di innovazione, è considerato, Adidas è assolutamente nei nostri primi due clienti. Ecco, una delle evoluzioni verso le quali voi state andando, che è anche coerente con i nostri discorsi qui a Fabrica 2.4, è quella delle wearable technologies. Assolutamente, perché in particolare adesso questa azienda cingalese, che non ha niente a che vedere con sicuramente low cost, ma è un'azienda assolutamente high tech. La Mass Holding che abbiamo nominato prima. Esatto, in Sri Lanka è un'azienda altamente innovativa. Buona parte dell'innovazione anche di Nike nascono nella Mass Holding, tanto per dare un'idea. E il fatto che adesso porterà all'interno della mia azienda uno spazio appartenente a loro di 500 metri quadri con all'interno varie tecnologie produttive, sicuramente porterà buona parte dell'innovazione e dello sviluppo made in Italy anche col nostro design. E tra queste, sicuramente in un'ottica del futuro, le wearable technology sono qualcosa sulle quali la nostra attenzione è focalizzata. Quindi potrebbero esserci delle maglierie di alta moda, magari fatte da marchi tipo Fendi o tipo Versace, che hanno anche sopra dei chip? Assolutamente, in particolare tutti i marchi sportivi in questo momento, tutti i marchi moda si stanno spostando ad orientarsi a fare anche il loro brand sportivo, e attualmente i device che vengono applicati a queste maglie sono molto scomodi e molto grossi, quindi in ottica futura cercare di integrare maggiormente, anche grazie a nanotecnologie, nuove tecnologie ad un abbigliamento più funzionale. Ecco, una cosa interessante è l'evoluzione della calzetteria. L'Italia era il paese dove venivano fatte le calze, soprattutto le calze di nylon. Poi c'è stata una decimazione di questo settore, anche perché le donne non mettono più tanto le calze di nylon come prima, tendono a mettere i leggings, e c'è un'evoluzione verso questo athleisure. Poi c'è anche il fatto che Calzedonia fa la parte del leone, ha spazzato via un po' tutti gli altri perché ha questi negozi convenientissimi dove ci sono calze low cost, ma comunque di qualità. E voi in qualche modo avete intuito che il mercato andava decimandosi e bisognava fare dell'altro? No, più che averlo intuito, sinceramente ci è arrivata addosso una mazzata nel 2009, quando è arrivata la crisi bella pesante, e ci ha in sostanza obbligato a cambiare molto in fretta la direzione della nostra produzione. Il calo della calzetteria è legato a svariati fattori, sicuramente la moda è uno dei principali, perché proprio l'athleisure stesso, la moda del leggings, ha spostato molte delle produzioni dei collan velati verso altre tendenze, ma anche se comunque i dati della calzetteria del Made in Italy vanno anche un po' filtrati, perché molte delle aziende italiane si sono messe a produrre in Serbia, per esempio, quindi spesso anche i dati delle esportazioni verso la Russia, che comunque rappresenta un terzo dei collan mondiali, sono made in Italy, nel senso che le aziende sono italiane, però nei dati di esportazione sono dalla Serbia verso la Russia, quindi sicuramente c'è un calo anche legato al fatto che il rublo è calato e, ripeto, era il mercato principale quello. Quindi è un insieme di cose, in sostanza, la moda da un lato, la Russia dall'altro, che hanno portato a un ridimensionamento. E sicuramente il ruolo di Calzedonia, che avendo cambiato completamente la grande distribuzione di questo articolo, spostandolo nei negozi di franchising, ha fatto in modo tale che tutti gli altri brand siano praticamente scomparsi. Ecco, cosa vuol dire che ogni vostra macchina gestisce 20.000 fili contemporaneamente? Ci spiega un attimo che cosa significa? Questo è il core business della nostra azienda, il nostro know-how e la nostra barriera all'ingresso. Cioè, noi produciamo in Italia un prodotto molto complesso con il quale nessuno riesce a competere con noi al mondo. Siamo piccoli, ma possiamo fare tipo 10.000 capi al giorno. Con questa tecnologia, nella quale io ho dedicato circa, diciamo, 20 anni del mio lavoro, sono delle macchine che io ho trovato in Giappone, vicino a Fukui, da un'azienda mezza tedesca e mezzo giapponese, e piano piano siamo arrivati a diventare, diciamo, di gran lunga i leader in questa tecnologia. Come si chiama questa tecnologia? La tecnologia si chiama Warp Knitting Seamless. L'azienda che le produce è un'azienda tedesca che si chiama Karl Mayer, che, uh-huh. produce, che produce anche le macchine per il pizzo, per i tessuti, per i costumi e altre cose. Questa è una nicchia della sua produzione nella quale noi ci siamo specializzati. 20.000 fili, perché tradizionalmente le macchine per fare il seamless, cioè i senza cuciture, che rappresentano dei tubolari basici rispetto al tessuto che è tagliato e cucito, sono delle macchine che girano con 8 rocche di filato. Viceversa, nelle nostre macchine i fili che entrano con contemporaneamente in ogni macchina sono più di 20.000 fili. Questo dà una complessità molto più elevata rispetto al seamless normale e consente di avere un prodotto che è veramente rivoluzionario rispetto agli altri per varie motivazioni, funzionalità, design, eccetera, che il discorso diventa lungo. Vabbè, senta, però voi state crescendo molto bene, il giro d'affari è sui 9-10 milioni, però come mi diceva lei, nel 2016 siete cresciuti del 30% e nel 2017 potreste crescere del 30-40%. Sì, sull'anno prossimo le prospettive sono ottime, perché abbiamo in portafoglio già, diciamo, il 60% del nostro break even, quindi io sono ultra ottimista. In più ci sarà l'apertura di questo centro, che della, quindi un centro della Mass Holding, esatamente, che quindi loro lo useranno come base europea e una loro strategia mondiale, ne apriranno anche uno negli Stati Uniti, in modo tale di avere la loro clientela e fornirgli una visione complessiva dello sviluppo, della ricerca e sviluppo dei prodotti sportivi in Europa direttamente e non in Sri Lanka. Ma magari anche nel mondo della moda potrebbe succedere quello che è avvenuto nel mondo dell'high tech, dove i terzisti in paesi in via di sviluppo poi alla fine si sono dotati dei loro marchi e hanno iniziato a competere con i grandi marchi occidentali. È avvenuto così ad esempio con Huawei, che prima faceva i cellulari per Apple e per altri, adesso c'ha il marchio e il suo da filo da torcere. Sì, in parte è così, anche se secondo me competere con colossi tipo Nike, tipo Adidas è completamente diverso. Cioè, secondo me i produttori devono fare i produttori nell'abbigliamento e i brand devono fare i brand. La commistione tra i due è veramente complessa. Cioè, spesso mi chiedono perché non hai fatto il tuo brand, perché fare il brand è una cosa, fare il produttore è un'altra. Nella moda non ci sono casi, se non rarissimi, nei quali il produttore ha anche il suo brand. Nel prodotto high tech come questo assolutamente no, è meglio orientarsi a creare una forte partnership col cliente, integrarsi e crescere insieme. Ecco, ma lei è a Verano Brianza, mentre le calze in genere si fanno che io mi ricordo intorno a Brescia. Sì, a Castelgofredo il distretto. Verano Brianza non c'entra niente con le calze, ma perché voi facevate prima le reti per l'agricoltura, in particolare per la raccolta delle olive, perché ci sono le olive sul Garda. Sì, esatto. No. Le olive, io sono entrato che la produzione principale erano queste grosse reti in polietilene, arancioni, che sono utilizzate tuttora per la raccolta delle olive. Poi facevamo anche delle nasse per i pesci. Insomma, un prodotto, diciamo, il più povero prodotto tessile che è possibile fare. Era il momento in cui stavano partendo ad arrivare Cina, Turchia come concorrenza, quindi ovviamente i prodotti con basso valore aggiunto sono scomparsi molto rapidamente e abbiamo dovuto. L'azienda è curiosa, è un caso aziendale, perché è evoluta molto in questi 20 anni. Prima di arrivare a fare la Treasure e la calzetteria, ha fatto anche i cosiddetti Spacer Fabrics, che erano tessuti tridimensionali utilizzati nella calzetteria, che ne avevo fatti tantissimi per Prada, per quando c'era moda degli stivali, eccetera. Quindi c'è un grosso know-how che, grazie al quale, è stato possibile seguire diversi trend della moda in questi anni. Bene, senta, voi non avete bisogno né di borsa né di private equity, e anche in questo siete emblematici di un certo tipo di imprenditoria piccola italiana di successo. Ricordo agli ascoltatori che siamo sui 10 milioni. Anzi, ad aprile potreste anche coprire tutto, a partire da aprile dell'anno prossimo, coprire tutto con l'autofinanziamento. Questo è il mio target, sarebbe il mio orgoglio, nel senso che arriviamo da 4 anni che sono stati assolutamente pesanti per l'azienda, però non ci siamo lamentati e siamo andati avanti a lavorare credendo nel prodotto, e adesso a partire da giugno abbiamo ripreso a lavorare giorno e notte, 24 ore, i weekend compresi, ho ripreso ad assumere, quindi riusciamo a chiudere l'esercizio con un molli intorno a 1 milione di euro quest'anno, un EBITDA, un utile positivo, e più che altro le prospettive sono molto buone per l'anno prossimo. Detto ciò, dai 4 calcoli che ho fatto, spero verso maggio di passare assolutamente in autofinanziamento. Benissimo, la devo salutare. Agli ascoltatori do appuntamento sabato prossimo alle ore 14. Grazie Cesare Citterio. Grazie a voi. A risentirci a sabato.